Il fiume curva e serpeggia per fronteggiare la città, che si profila all'improvviso, massiccia, impressa sullo sfondo. La sua luce prorompe contro la zona circostante, ferendo le colline di roccia con livide chiazze di sangue. Le luride torri splendono. Sono avvilito. Sono costretto a venerare questa straordinaria presenza creata dal limo alla congiunzione di due fiumi. È un'immensa inquinatrice, è fetore, è risuonare di clacson. Grassi camini vomitano sozzure dal cielo, persino in questo momento, in piena notte. Non è la corrente a spingerci, ma la città stessa che ci trascina, risucchiandoci con il suo peso. Deboli grida, qui e là, richiami di animali, lo sciano frastuono e il martellare delle fabbriche in cui si accoppiano immensi macchinari. Simile a un intrico di vene protruse, la ferrovia disegna l'anatomia urbana. Mattoni rossi e mura scure, chiese acquattate come arnesi troglodittici, logore tende svolazzanti, dedali acciottolati nella città vecchia, strade senza uscita, fogne che crivellano il terreno come sepolcri profani, un nuovo paesaggio di cumuli di rifiuti, pietra frantumata, biblioteche piene di volumi dimenticati, antichi ospedali, palazzi a molti piani, navi e artigli metallici che sollevano carichi dall'acqua. Come abbiamo potuto non vedere cosa si stava approssimando? Che scherzo della topografia è mai questo, che consente al mostro scompostamente disteso di nascondersi dietro gli angoli per poi manifestarsi davanti al viaggiatore? Perdido Street Station, China Mieville.